mie belle, in coito borghese toccare il fin dell'avventura voglio di quella giovin che vedete a tempio da tre mesi ogni festa la sua dimora in un remoto calle misterioso un buon ventrò di notte che sa qual è chi sia l'amante suo lo ignora. Quante beltà mirate, le vince tutta, dice Bran la sposa. Non vada il conte a duca, a me che importa dirlo ad altre ipotria. Ne sventura per me, certo saria. Questo quella per me pari sono a quant'altri intorno, intorno mi vedo. Del mio cuore l'impero non ceda, meglio ad una che ad altra realtà. La costoro avvenenza e quel dono, di che il fato le infiora la vita. Così questa mi torna gradita, forse un'altra, domani lo sarà una. La costanza tiranna del cuore detestiamo quel morbo crudele. Sol chi vuole si servi fedele, non domandano se non v'è libertà. Dei mariti il geloso furore, degli amanti le semanie derido, anche d'argo i cento che ti spingo, se mi punge una qualche beltà a sé. Qualche beltà. Partite. Al sole brillare per voi qui ciascuno dovrà palpitare per voi già possente la fiamma d'amore in ebria conquide distrugge il mio cuore. La fiamma d'amore in nebbia conquista che distrugge il mio cuore. Per voi già possente la fiamma d'amore in nebbia conquista che distrugge il mio cuore. In testa che avete, signor di Ceprano? E sbuffa, vedete? Così, dunque, che pur si diverte. Così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, e intanto il marito fremendo ne va. Thank you. la nuova. Stupirne dovrete. Narrate, narrate. Ah ah, Rigoletto. E ben. A svelare. Per tutta la gobba non è più difforme. Più strana è la cosa. Il pazzo possiede. Infine. Un amante. Un amante, chi crede? Il gobo incubino ma s'è trasformato. Il vostro cupido, cupido beato. A più di cefrani importuno non v'è. La cara sua sposa è un angel per me. Rapitela. È detto, è il farlo. Stasera. Non pensi tu al conte? Non c'è la prigione. Ah no? Ebben, Cecilia. E meno buffone. Allora, allora la festa. O l'anima nera. Che di questa festa? È ben naturale che far di tel testa a cosa è lavare. Orrano, fermata. La rider mi fa. Buffare vien qua. Il cuore mattato. Il cuore mattato. Il cuore mattato. Ha sempre tu spinto in lo stendio dall'estremo. Che colpo gli ermi buonte di noi che non è. Quel bimbi e vecchie spinti di colpinarti portare. Dei corpi schietta a me. E non ne sono toccherà. Matto, voi detti, siate entrambi fine, o duca. E tu, serpente, tu che d'un padre ridi al dolore, si maledetta, che sento orrore. Serve, no, al momento. io la lingua, egli è il pugnale, l'uomo son io che ride. Ehi, quel che spegne. Quel vecchio maledivami. O uomini, o natura, il scellerato mi faceste voi. O rabbia, esser difforme, rabbia, esser buffone. Non dover, non poter altro che ridere. Il retaggio d'ogni uomo è tolto. Il più questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice, fa chi arrida, buffone, forzarmi d'egge farlo, o dannazione, di a voi artigiani schernitori, quante mordervi o gioia, se iniquo son, per cagione vostra e solo. Porta! difforme, povero, per compassion mi amo. Sia mai che sono bombe fuori. Sì. Alla chiesa vi seguiva mai nessuno? Mai. Rigoletto. Se talor vi picchian, guardatevi d'aprire. Nemmeno il duca. Non ched altri a lui. Mia figlia, addio. Sua figlia. Thank you. importa a te, io t'amo. Uscitene. Uscire. Adesso, ora che accendere un fuoco stesso. Ai separabile d'amore il Dio. Stringemo, Vergine, tuo fato al mio. E il sol dell'anima speranze d'anima, sal tu sarai, sarai, sarai. mia per te. Thank you. all'opera badate a me. Vada quel vecchio fui maledetto. Chi va là? Tacete! C'è Rigoletto! Vittoria doppia, uccideremo. No, che domani più rideremo. Or tutto giusto. Chi parla qua? Ehi, Rigoletto. Chi? Chi va là? Ehi, non mangiarci. Son chi? Parlo. Intanto buio, lo sguardo è nullo. Ne condusse ridevol cosa, torre acciappavano, voliam la sposa. Ahimè il respiro, ma come entrare? La vostra chiave, come dubitare? Non deve mancarci lo stratagemma. Sento il suo stemma. Pater Urbano fu dunque il mio. Nera il palazzo, con voi son io. Siamo mascherati, ch'io pur mi mascheri, a me una larva. Si fronte già, terrai la spara. Sono bendato! Oh! Gilda! Gilda! Gilda! sei brevi istanti, prima che il mio presagio interno sull'arma corsa ancora mi spingesse. Schiuso era l'uscio e la magion deserta, e dove ora sarà quell'angiol caro, colei che prima poté in questo cor destar la fiamma di costanti affetti, colei si pura il cui modesto sguardo quasi spinto a virtù t'amor mi credo. Ella mi fu rapita e chi l'ardiva, ma ne avrò vendetta. L'occhio del pianto non invidio, la poveretta fu noi stessi a rotto qui a tutto il cielo mi rapì. Hey! a me contro, venite tutti contro me. Oh, bene, piango, marullo, signore, tu che in alma gentil come il cuore, dimmi tu dove l'anna nascosta, marullo, signore, dimmi tu dove l'anna nascosta, e là non è vero, e là non è vero, e là non è vero. Oh,

pur quanto a fare mi resta, lasciare potremo quest'aura funesta, e tutto un sol giorno cangiare potrà. Certa fossi che ti tradisse, l'ameresti ancora? Non so, ma pur m'adora. Egli sì. Ebbe osserva dunque. Un uomo vedo. Per poco attendi. Due cose e tosto. Vuoi una stanza e del vino? Son questi suoi costumi. O il bel giardino. Signor, d'amore ardente, signor, mi interesse, mi piace. ottimo sposar. Amabile figliuola, e non ti basta ancor. Ricordo, amabile figliuola. Ricordo, amabile figliuola. Son de vezzi tuoi, con un detto sol. Del mio cuore il frequente palpito. Le mie pene consolar. casa, oro prendi un destriero, una veste viril che t'apprestai, e per Verona parti, sarò vio pur doman. Or venite. Impossibile. Tremo. Va. Venti scudi e tu detto, eccone 10 e dopo l'opera il resto. Ehi qui rimane. Sì. Alla mezzanotte ritornerò. Non cale, a gettarlo nel fiume vasto io solo. No, no, il vo far io stesso. Sia il suo nome. Vuoi sapere anche il mio? Egli è Darì. Questa è vicina, più scura fia la notte. Maddalena! Aspettate, mio fratello viene! Che importa? E pioverà fra poco. Tanto meglio! Tu dormirai in scuderia, all'inferno, dove vorrai! Oh, grazie! Ma no, partite! Con tal tempo? Sono 20 scudi d'oro, ben felice d'offrirvi la mia stanza. Se a voi piace, tosto a vederla andiamo. Ebbene, sono con te, presto vediamo! Venti scudi ne dà di prodotto. Sol 20, son pochi, valeva di più. La spada sei d'orme, va, portami giù. Orrore. bello. Chi parla? Al diavolo tempo. Somiglia un Apollo quel giovine. Io l'amo, mi mama, riposi ne più l'uccidiamo. Occello! Rattoppa quel sacco. Perché? Mentre esso il Apollo sgocciato da te, c'è tardo avrà il fiume. L'inferno mi vedo. Salvarti scommetto, servando l'invito. Difficile il credo. Ascolta, anzi facil ti svelo un progetto. E scudi già 10 del gobbo ne avesti. Venire con gli altri più tardi il vedrai. Uccidi, senti, allora ne avrai. Tutto il prezzo godersi potrà. Uccider quel uomo, per diavolo dicesti, un ladro san forse il bandito, qual'altro cliente, come fu tradito, mi paga quest'uomo, fedele m'avrà. Grazie per esso. E come ti voglia? Uccidere come esso. Scudi per diavo, da sa fare. Salvato, se prima che mi vengo la notte tu parla, e giunta per esso morrà. E poi alla notte che cerco mirato, nessuno che scuola da qui passerà. Ma qui anche la zia, che potrebbe di troppo, e c'è un thank you. vendetta al fin giunge l'istante. Da 30 dì l'aspetto di vivo sangue a lacrime piangendo sotto la larva del buffon. Quest'uscio è chiuso, ma non è tempo ancor. S'attenda. Qual notte di mistero, una tempesta in cielo, in terra un omicidio. Oh, come in vero, qui grande mi sento. Mezzanotte. Chi è là? Son io, son state. Ecco spento il vostro uomo. Oh gioia, un lume! Un lume? No, il danaro. Lesti, all'onde gettiam. Bastio solo. Come vi piace, qui menatto il sito, più avanti e più profondo il gorgo. Presto, che alcuno vi sorprenda. Buona notte. Egli è là, morto, oh sì, vorrei vederlo. Ma che importa, è ben desso, ecco i suoi sproni. Ora mi guarda, mondo. Questo è un buffone, ed un potente questo, e sta sotto i miei piedi, ed esso, oh gioia, è giunta al fine la tua vendetta, oh duoro. Sia l'onda lui sepolcro, un sacco il suo lenzuolo. All'onda, all'onda. Col voce illusione notturna è questa. La donna è nobile, no, no. Maledizione, ora di me bandito! Sua vece io tremo. È umano corpo. Mia figlia, Dio, mia figlia! Ma no! È impossibile! Per Verona in via fu visione. Ed essa, oh mia Gilda, fanciulla, a me rispondi. L'assassino mi svela. Olà! Nessuno, nessuno. Mia figlia, mia Gilda, oh mia Gilda. Ella parla, si muove, è viva. Oddio! Strai di mia giusta vendetta.